Cerchi un'informazione fresca come una bibita? Alessandro Mila, Radio 24. 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. I decided to start from Silicon Valley. Please don't translate Valle del Silicio. So, Mr. Ambassador, sorry if I am very frank. Non ci credo. Non ci credo. I am very frank. No, non è possibile. No, I am very frank. No. I am very frank, sono molto franco. Così il presidente del Consiglio Matteo Renzi ieri a New York. I am very frank. Allora, eccoci qua, sono le 6:34 minuti, questa è 24 mattino, siamo anche noi molto molto frank. Franks, no, nell'aggettivo il plurale non si mette la S. We are very frank. E siamo molto felici di invitarvi qui con Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia, il nostro Parlamento che può aprire la serranda. Evviva, evviva. Vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. I am very frank. Chissà se Paolo Del Debbio è un uomo frank. I am very Paul. Paul. Perché Paul? Paul. È Paolo. I'm very Paul. Va bene, va bene. Allora, Paolo Del Debbio, conduttore di Quinta Colonna, il lunedì su Rete 4 in prima serata. Caro Paolo, ti voglio presentare un neo ingresso al Parlamento, sono molto felice di averla qui con noi. Si tratta di Paolo. Chiara Celoni, buongiorno. Chiara si autopresenta, grandissima. Ma che bellezza la Celoni. Chiara... Ridateci la Celoni. Esatto, esatto. Tra l'altro su Twitter è proprio così, la Celoni. Chiara Celoni. Ma che fai adesso, Chiara? Niente, mi alzo tardi la mattina, come vedi. Vabbè, subito prima stoccatina, vedi, Paolo Del Debbio, perché l'abbiamo chiamata alle 6:30. Dai. Chiara Celoni, ex direttrice di UDEM, ma sempre nel Partito Democratico sei, no? Sì. Fieramente nel PD. Assolutamente sì. Però bersaniana. Come però? No, nel senso nel PD, vabbè, adesso è Renzi, è sì. Renzi, è PD ma bersaniana. Ah, il PD è un partito grande, c'è posto per tutti. C'è posto per tutti. È un partito frank, oserei dire, è un partito... Frank Yoland, come diceva Emilio Fede. Vabbè, esatto. E non traducete Silicon Valley in Valle del Silicio. Ragazzi, ma oggi sull'inglese di Renzi, no, vogliamo farvi sentire qualcos'altro, ma sentite un po'... È andato, peraltro ha premesso, il mio inglese è terribile, quindi mettete i sottotitoli, ma in radio non si può, e allora beccatevi un po' di inglese di Renzi, ieri. Italy is committed to arrive in 2020 as 33% in the, come si dice, asili nido, kindergarten for ma è straordinario, come si dice asili nido, ma grandissimo. Ancora, cos'è questa, the sprint of certificato, ma chi è? Senti questa, sentite. This mobile is not the instrument why I'm online, why we wait for the sprint of certificato and I use for as a of Leonardo da Vinci of Del Debbio, cos'è lo sprint of certificato? Io non è un certificato che va veloce, non ce la posso fare. Credo che voglia dire vogliamo fare una bella riforma della pubblica amministrazione, the sprint of certificato. No, vuol dire per faccio print il certificato per non stampare. Stampare il certificato, glielo da online. Dai, ma, Milan, ma The Sprint! Fai un'informazione fresca, come dice come una bibita. Vabbè, come una bibita, esatto. Allora, Chiara Geloni, allora, hai capito come funziona? Renzi lunedì va in direzione, ha detto al Corriere della Sera, c'è un retroscena, li sistemerò tutti uno per uno, non c'è dubbio. Li spiazzo in due e poi tutti si adeguino. Sì. Vabbè, tu non sei parlamentare, quindi non devi votare, ma no, ti piace questo metodo? Tantissimo. Ti piace questo metodo? Sì, sì, tantissimo. Sì, sì, ma se gli riesce, io siccome faccio l'osservatrice e l'analista politica, sono interessata a vedere se gli riesce. Secondo me non gli riesce. Non gli riesce. Non funziona così. E quindi che succede se non gli riesce? E quindi dopo che lui avrà parlato qualcuno dirà quello che pensa e sarà una bella discussione. E poi si voterà. E poi si voterà. Ho capito, ma se non gli riesce, cioè tu dici che non riesce a far passare questa linea, quindi perderà ai voti. No, adesso intanto bisogna capire cosa dice, perché io sinceramente non sono mica sicura che lui lunedì dirà voglio abolire l'articolo 18. Tu sei sicuro? Non lo so. No. Perché... non è che lo dica proprio così quando lo dice, quindi intanto bisogna vedere cosa dice e poi bisogna vedere se riesce a farlo. Vabbè, hai capito. Cioè, bisogna convincere la gente, sia quando si fa la campagna elettorale per prendere i voti, sia quando si governa un partito o una maggioranza. Però, allora, pare che voglia andare dritto, dritto come un carro armato, avrà degli argomenti, non so, Paolo Del Debbio, avrà degli argomenti lunedì adesso, parlando seriamente, seriamente speaking. L'ha detto Bersani, perché ha detto, te hai la maggioranza del partito, però governi col 25% che ho preso io, che vuol dire che te c'è la maggioranza in direzione, ma non ce l'hai in Parlamento, perché il PD in Parlamento non è quello della direzione, perché è quello che ancora ascolta me, eccetera, eccetera. Quindi ci sono mandati un paio di staffilate di questo tipo. E quindi bisogna vedere poi cosa fanno in Parlamento, cioè, perché quelli che seguono Bersani e in Parlamento non lo votano, è chiaro che va giù e non ha più la maggioranza. Sì. E questo è il punto. La direzione conta fino a un certo punto, conta poi cosa decideranno di fare in Parlamento. Questo certamente. Intanto ci fa sapere un ascoltatore, ciao, I'm very Christian. Però qualcuno ci fa notare che in effetti Frank si dice frankly speaking, per esempio, no? Sì, può dire. Ma con l'avverbio però. Esatto, ma I'm very Frank credo che pignoli. Non sia. Sì, siamo pignoli, così vogliamo fare le pulce al premier, siamo dei goof. Ma tu ti senti un po' una gufa? Chiara? Io mi sento una civetta. Una civetta? Eccola lì, papà, fa la civetta. Come si suol dire, caro Paolo Del Debbio. Però io vi voglio fare questa domanda, perché oggi ho preso in mano il Corriere della Sera per vedere, e vabbè, insomma, oggi si sono comportati con Renzi normalmente rispetto a ieri, invece questo editoriale di De Bortoli che viene interpretato da Giornale, Libero, Il Fatto Quotidiano, come dire, basta, i poteri forti hanno abbandonato Renzi, no? Guardate il titolo del giornale, sobrio, Il Corriere decapita Renzi, questo è il titolo di prima pagina. Secondo voi cosa c'è dietro, se c'è dietro qualcosa, nell'editoriale molto duro che ieri De Bortoli ha fatto nei confronti di Renzi? Chiara Geloni, no, perché qua si parla già di Draghi, la Troica, i governi tecnici. Io vado in Botswana se arriva Mario Draghi, perché, ma non che ci abbia niente contro Mario Draghi, ma voglio dire, Chiara Geloni, tu che ne pensi? Cosa c'è dietro? Magari anche niente, cioè, perché insomma sappiamo che De Bortoli sta per andarsene dalla direzione del Corriere, sì. Magari ha deciso di divertirsi un po', se avesse deciso di divertirsi un po' ci divertiamo, perché potrebbero essere mesi così scoppiettanti in cui il Corriere ci fa vedere un volto sconosciuto, ma altro che minigonna, quella che diceva di avergli messo Paolo Mieli, però insomma io ho trovato anche un po' eccessive ieri le reazioni a questo editoriale, perché cavolo, io sarà che c'ero abituata, ma succedeva spesso che il Corriere della Sera attaccasse il leader. Sì, però il direttore sì, del Corriere, sì, è vero che ieri c'era il Corriere con la nuova grafica e quindi e il direttore ha lanciato il nuovo giornale. Adesso poi vediamo nei fatti. Comunque può darsi anche che ci sia una parte così dell'establishment italiano, certamente non tutto, come si vede da Marchionne che ieri ha fatto tutta una cosa, viva Renzi, quanto è bello, quanto è bravo, però può darsi anche che ci sia qualcuno tra i grandi imprenditori, i poteri finanziari, economici che comincia a pensare che Renzi ha detto e poi però non ha fatto non mantiene le cose, darsi. Chi lo sa, non sarebbe proprio ma per carità, succede, può succedere qualche criticuccia del Debbio. Tu che interpretazione hai del Debbio, oppure è una roba, dice, stiamo seguendo un po' di seghe mentali, diciamoci la verità, no? Sarà perché sono le 6:30 sarà perché c'è la voce sua dentro della Geloni, sarà per questo e quell'altro. A me non me ne fotte nulla. Per l'editoriale di Paolo Del Debbio, l'editoriale. Io dico francamente, cioè nel senso che ha ragione la Geloni. Frankly speaking. Abbiamo assistito con vari premier a qualche esaltazione e poi alla polvere, l'altare e la polvere. Uno, diciamo, si volta, non vede l'altare e polvere, aspetta le cose concrete di Renzi se ci saranno. Dopodiché un giudizio lo do anch'io. Il mio piccolo non varrà niente, ma lo darò, lo seguiamo anche noi in trasmissione Renzi a vedere che fa, quel che non fa, la Tasi, questo e quest'altro, però per ora, diciamo, a parte non è il nostro compito di fare editoriali, insomma, lo seguiamo e vediamo, gli diamo una bacchettata quando No, ma in quell'editoriale c'era, l'hai letta anche tu, si parlava di il patto del Nazareno odora di massoneria, e ministri totalmente inadeguati, un ego ipertrofico, cioè era un attacco proprio, come dire, anche sulla persona, no, più che altro, cioè, come dire, no, io non lo so, si vede che qualcuno lì dentro ha staccato la spina. Capisci che quindi la cosa. Comunque ci scrivono che Frank è una delle poche cose giuste che ha detto Renzi. Capra Milan. Mi hanno detto to be frank, si dice. Vabbè, sono ignorante come una capra. E Renzi sa l'inglese. Infatti ve ne faccio sentire un altro pezzo prima del traffico. The first telephone was an Italian telephone. Was created by Antonio Meucci. Antonio Meucci worked in the theater of La Pergola in Florence and he decided to invent these instruments. But he lost the opportunity to have the copyright for the lack of money. It's a sad history, but maybe could be also a possibility for the future in Italy. We have good ideas and we are not able. 24 mattino. Milan, ho deciso, anch'io voglio andare in televisione a dire, come dicono tutti, che per sistemare le cose bisogna abbassare le tasse sul lavoro. Penso di essere all'altezza anch'io di andare in televisione e dirlo. L'articolo 18 deve essere abolito per tutti. Per tutti, cazzo, tutti. Anche statali, per tutti, per i grandi e per i piccini, per tutti. Sarò malizioso, ma vuoi vedere che Bonanni se ne va via perché ha paura che gli cambiano la legge che è servita a Marco Paolo Nigi e a tutti gli altri topi di fogna che ci stanno rubando ogni cosa? Ma vedete se fa passare o no questa cosa. Dopo Aladino, Alino, esprimi 3 desideri, lui te li racconterà. Peccato che lavoro, economia e inquinamento mondiale peggiorano. Grazie, tra 1000 giorni faremo i conti. Salutiamo Bonanni, dai Camurcio, saldala, lascia la poltrona, anche tu Angeletti, rimodernate le vostre poltrone che si sono sciupate, si sono rovinate, evviva l'Italia. No, volevo dire che alle prossime votazioni cerchiamo di votare Alibaba, così i ladroni saranno solo 40, grazie. Vabbè. questa ultima del Debbio è un po' populista, un po' demagogica. Ma va, telefono, uno al telefono. Vabbè. Siamo con Paolo Del Debbio, siamo con Chiara Geloni. E, allora, questa è la nostra segreteria telefonica, Chiara Cara, dove la gente dice di tutto. Vabbè, buona, sì, un po' uno sfogatoio. Comunque, vabbè. Sì. Andiamo avanti. Uno deve dire qualcosa. Andiamo avanti. Allora, in realtà molti giornali aprono su questo. Ieri su Twitter ho battagliato, mi sono attirato molte critiche, c'era gente che mi insultava di qua e di là perché ho detto una cosa così semplice, riguarda quello che sta succedendo in Algeria, avete visto anche l'ultima decapitazione. Io non conosco nel 2014, lo so anch'io che ci sono state le crociate un po' di anni fa, nel 2014 non conosco dei cristiani che vadano in giro a sgozzare persone di altre religioni brandendo la Bibbia e dicendo perché il nostro Dio è meglio e voi siete degli infedeli. Io non ne conosco, non so, tu Chiara Genoni ne conosci? E dice no. per questo mi ritengo più ce ne sono stati, non 5.000 anni fa, voglio dire, anche qualche decina di anni fa, comunque è vero, hai ragione. Cioè, e quindi ho detto mi ritengo più progredito, ritengo che la nostra civiltà abbia fatto dei passi avanti in più figurati subito, lo scontro di civiltà, vuoi la guerra di religione, ma chi vuole la guerra di religione? Non la voglio una guerra di religione, però ho detto questa cosa, però non lo so, anche perché quello è vero che forse, insomma, adesso prendo una parte di quello che dici, la religione musulmana è più giovane della religione cristiana, sì. Quindi forse attraversa delle fasi che il cristianesimo ha già attraversato, però io penso che non ci dobbiamo dimenticare, anche quando ne parliamo in pubblico perché siamo giornalisti, che questa è una guerra tra musulmani, tra diverse idee della religione musulmana, sì. E c'è una fascia estremista che ha come nemico i moderati. È una guerra tra sunniti e sciiti, però Del Debbio ho sentito che era un po' perplesso, cioè una guerra che ci coinvolge, perché questo ragazzi era un turista francese che è stato ucciso perché era lì e perché è stato ucciso perché era francese. È stato ucciso perché era francese. Un segnale a Hollande. Ho capito, ma cioè, ci rendiamo conto? Era già una guerra, come definirla, Del Debbio, voglio dire. No, dunque, tu hai ragione in quel che hai detto, parola per parola. Il punto è che in Italia qualsiasi cosa tu dica in queste tematiche, non è che guardano a cosa hai detto, come ha fatto giustamente la Geloni e ha detto. In realtà ci sono stati, però quello che hai detto è vero, perché oggi è vero. No, non fanno così generalmente. Cosa ha detto Milan? Benissimo, allora, ideologicamente da che parte sta? Ma sì, esatto. Cosa ha detto la parte? Ha detto una cosa, ditemi che non è vera quella cosa. Nel 2014 ci sono cristiani che vanno a sgozzare i musulmani? Sì o no? No. E allora ha ragione Milan. Nel 2015 si vedrà e nel 600 e nel 500 ci sono stati, si bruciavamo le streghe, per carità, però ora non ci sono, quindi pone un problema questa cosa, il fatto che non ci siano e che viceversa ci siano musulmani che sgozzano i cristiani o no? Lo pone che sia una guerra fra di loro. Fatto che i musulmani sgozzino la gente è un problema indipendentemente dal fatto che i cristiani I musulmani terroristi, indipendentemente, insomma. Tanto sgozzano i cristiani. Però oggi lo leggerò tra poco in rassegna stampa. Bernardo Valli, che certo non può essere accusato di essere Magdi Allam, ecco per dire. Bernardo Valli su Repubblica scrive dall'alto, tra l'altro, della sua grandissima esperienza di inviato da decenni in zone di guerra. Insomma, comincio a preoccuparmi. Ecco, vedo una sorta di accerchiamento. Queste cose sono sempre più vicine a noi, non solo geograficamente. Se ne accordo Valli, siamo a posto. Eccola la zampatina di Paolo Del Debbio, va bene. No, se ne accorto anche Valli, che siamo cerchiati

Schwarzer e l'atletica prima di doparsi. Quanto era bello! Sono una serie di intercettazioni nelle quali Schwarzer racconta a una persona, a Salvatore Giuliano, comandante della sezione atletica del centro sportivo di Bologna: sai quante volte mi ritrovo solo e mi dicevo, ma quanto era bello fino a 4, 5, 6 anni fa, quando ero più ignorante, facevo atletica, quando guardavo meno a destra e a sinistra. Sono le frasi, le intercettazioni di un Alex Schwarzer che diceva, meglio non sapere tante cose, molto meglio l'atletica prima che iniziassi a doparmi. Questa frase non la dice così, ma si capisce dalle interpretazioni delle mail. Mentre, attenzione, c'è una notizia. Ricordate quello del il comandante Gregorio De Falco, quel torni e quello del torni a bordo a Schettino? È stato rimosso dal suo ufficio e dice: è mobbing, farò causa. Via l'ufficiale del salga a bordo, è mobbing, sono pronto a fare causa. Fa anche un'intervista a Repubblica, dice: Schettino è in cattedra, io spedito in ufficio. Questo paese storto punisce i suoi servitori. Intervistato Gregorio De Falco da Repubblica, dice: vittima di mobbing. Qualcuno ha scritto: torna in ufficio. Vabbè, e poi aggiungete la parola che volete voi. Va bene, siamo al momento della carta costa. Dopo aver detto che Juve e Roma hanno vinto, e quindi Juve Roma avanti tutta, questo è il titolo della Gazzetta. Ho battuto Clooney, una pagina di Alessandro Dell'Orto su Libero. Clooney voleva fare il ricevimento al Cipriani, ma è stato battuto da un manager italiano, Mauro Marchiaro, che aveva già prenotato la location. Ho battuto Clooney. Ale, 5 su 7 giorni c'è, chissà se ci offre anche un caffè, tra un quotidiano un'intervista, milanista Lino è. Mattino. Un sacerdote che fa questo tradisce il corpo del Signore, perché questo sacerdote deve portare questo bambino, questa bambina, questo ragazzo, questa ragazza alla santità, e questo ragazzo, questa bambina si fida, e questo invece di portare alla santità abusa loro, e questo è gravissimo. È proprio come, ma dirò una comparazione soltanto, è come fare una messa nera. Così parlava di recente il Papa, Papa Francesco, che fa sapere tramite il portavoce Vaticano, non c'è solo il caso dell'ex arcivescovo Veslovsky, arrestato in Vaticano per le accuse terribili quando era nunzio, cioè ambasciatore vaticano a Santo Domingo, di abusi sessuali sui minori. Ci sono e ci sarebbero altri due vescovi. Si tratterebbe del cileno Marco Antonio Ordenes e del peruviano Gabino Miranda Melgarejo, accusati delle stesse infami atrocità, e cioè abusi sessuali sui minori. Veslovsky rischia da 6 a 7 anni, il processo chissà quando e se e come ci sarà, i tempi sono lunghi. È stato arrestato agli arresti domiciliari perché c'era il rischio di fuga, ed è stato arrestato con del materiale pedopornografico. Si è parlato molto delle novità, dell'apertura del Vaticano. Oggi Joaquín Navarro Valls, portavoce vaticano all'epoca del precedente Papa, aveva, e anche e soprattutto di Papa Wojtyła, scrive su Repubblica: è giustissimo apprezzare la decisione di Papa Francesco, ma bisogna sapere che è la logica e coerente conseguenza di un'impostazione pienamente attuata e totalmente condivisa dai suoi predecessori. Avete capito di cosa parliamo, cari ascoltatori? 800 24 00 24. Se volete intervenire in diretta, io voglio salutare subito la professoressa Lucetta Scaraffia, che insegna la Sapienza, buongiorno, e anche editorialista dell'Osservatore Romano. Senta, professoressa Scaraffia, voglio partire da una mail che ho ricevuto ieri da Chiara da Treviso, che dopo aver sentito tutta questa vicenda mi scrive: ma scusate, quando è che smetteremo di applaudire come grande atto di umanità il fatto che il Papa prenda i provvedimenti di legge contro un pedofilo che ha studiato stuprato bambini innocenti. Mi pare il minimo sindacabile, l'ovvio più totale e disarmante. Questo Papa è per caso un genio perché ha difeso i bambini? Lei che risponde? Penso che abbia ragione questa signora, cioè, però la cosa interessante di questo arresto è che non solo il pedofilo è stato ridotto allo stato laicale, ha perso tutte le sue i suoi gradi ecclesiastici e la sua funzione, ma è stato messo in prigione. Cioè questo era il cambiamento molto forte. Lo stesso Stato della Chiesa l'ha considerato responsabile di un delitto e non l'ha, diciamo così, lasciato giudicare solo agli stati in cui lui è stato denunciato, no? I paesi Santo Domingo, dove è stato commesso almeno l'ultimo reato. Questo ha significato un atteggiamento ancora più rigoroso di prima. Bisogna dire che in generale la pedofilia è un delitto scivoloso ovunque, non solo nella Chiesa. Naturalmente che anche nella Chiesa sia molto, ma molto più grave, nessuno lo mette in dubbio. Cioè, questo lì certamente è molto più grave. Però lei dice un passo in avanti, è il passo completo o queste perché si dice spesso queste cose hanno bisogno di tempo, hanno bisogno di elaborazioni, non sarebbe una cosa talmente ovvia? Guardi, io non so se lei ha letto oggi Repubblica, io avevo incrociato questa inchiesta sull'International Herald Tribune, come ho ricordato ieri, il 25 agosto, in cui si raccontava per filo e per segno ciò che a Santo Domingo tutti sospettavano e sapevano da tempo, da anni. Cioè la cosa più ovvia non sarebbe dire, una persona della Chiesa ha sbagliato, sia consegnata alle autorità del paese in cui ha sbagliato? Ma penso che lo faranno, di consegnarlo all'autorità del paese che ha sbagliato. In questo momento lui è stato chiamato a Roma per, credo, per anche portare a termine, diciamo, la sua svestizione di tutti i gradi ecclesiastici, e lì, per evitare che fuggisse, che inquinasse le prove, è stato messo in prigione, ma poi sono sicura che verrà dato probabilmente a Santo Domingo, anche la Polonia lo sa, no? Lo richiede per giudicarlo, comunque come un delinquente comune, deve essere giudicato come un delinquente comune, questa è la cosa fondamentale. Però insisto col dire che il delitto della pedofilia è un delitto che non a caso, io sono storica, no? Quindi le posso dire che è emerso alla opinione pubblica la cosa solo negli ultimi anni, non solo perché forse è un po' aumentato, ma soprattutto perché se ne parla, mentre prima non se ne parlava. Non se ne parlava nelle famiglie, non se ne parlava nei circoli sportivi, nelle scuole, veniva messo a tacere ovunque per il buon nome della famiglia, della scuola, dell'istituzione in cui questo avveniva. E poi si cercava di evitare. Poi naturalmente c'era il buon senso delle vecchie zie, le nonne, che non lasciavano mai i bambini soli con un uomo, che stavano molto attente alle situazioni che si prestavano a questa situazione. Però la denuncia pubblica, l'abitudine alla denuncia pubblica, diciamo così, è piuttosto recente in tutti i settori. Sì, chiaro, non sta parlando solo della Chiesa. È una la rivoluzione, il messaggio, secondo lei, di Papa Francesco è proprio nell'arresto, quello che deve essere quello visto, che ha cambiato tutto, non solo di togliergli, diciamo, tutte le funzioni ecclesiastiche, no. Però mi scusi, usando questo stesso metodo di giudizio potremmo allora dire che i precedenti papi, io ho letto volutamente quello che ha scritto Joaquín Navarro Valls, non abbiano fatto abbastanza? Ai nostri occhi non hanno fatto abbastanza, io di quello sono convinta, ma non hanno fatto abbastanza per vari motivi, cioè ci sono stati due intrecci complicati. Uno è che Giovanni Paolo II veniva da un paese comunista in cui l'attacco ai sacerdoti veniva fatto dal regime comunista attraverso delle false accuse di pedofilia, di omosessualità, e quindi lui aveva una grande tendenza a considerarle sempre maldicenza, a considerarle attacchi contro una persona e non realtà. Era proprio la sua forma mentis, ognuno di noi è segnato dal contesto in cui è vissuto. Si è visto nel caso di Marcel, che Giovanni Paolo II, sì, diciamo, ha difeso un po' troppo in là. Ecco. Però Ratzinger invece, che ha denunciato la cosa e ha fatto di tutto perché venisse con Marcel, lo sappiamo, appena fatto Papa, la prima cosa che ha fatto, come lei si saprà, è stata quella di, diciamo così, tirar fuori questa faccenda, sì, perché sì, denunciarla, però non era uomo di combattimento, insomma, era un uomo che denunciava, soffriva, però non era capace di metterlo in galera, ecco, come ha fatto come ha fatto Papa Francesco. Tra poco magari le leggerò anche ciò che Giuliano Ferrara oggi sul Foglio scrive, e Giuliano Ferrara è sempre così un po' abituato a stupire, è un attacco invece che fa a Papa Francesco. Prima però, professoressa Scaraffia, le voglio presentare un uomo che tutti conosciamo adesso come conduttore di Quarto Grado il venerdì in prima serata su Rete 4, ma che ha scritto dei libri molto potenti, uso questo aggettivo, perché hanno scoperchiato tante cose sul Vaticano, cito Vaticano S.P.A. e Sua Santità. È Gianluigi Nuzzi, buongiorno Nuzzi e ben ritrovato. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, Gianluigi, è davvero, dice la professoressa Scaraffia, il messaggio nuovo è quello dell'arresto da parte del Vaticano, anche se agli arresti domiciliari, dobbiamo interpretarlo così, una novità potente anche questa da parte del Papa? Beh, è un messaggio molto potente all'interno del suo mondo, della sua comunità, cioè della Chiesa. Gli arresti, seppur domiciliari, in realtà lui è stato in gattabuia pochissimo tempo, l'ex arcivescovo, non si erano mai visti. Cioè, adesso, per dirla in maniera ruvida, potremmo dire che in Vaticano si scopre il reato di pedofilia anche nei tribunali, non solo quelli ecclesiali, ma anche nella giustizia ordinaria. E questo segue il dettame di Ratzinger, quando diceva di rivolgersi anche alla giustizia, riconoscere di rivolgersi anche alla giustizia civile. Credo che sia un passo importante, rispetto a quello che ha fatto Ratzinger, però secondo me ha fatto molto di più Ratzinger, cioè ha agito sulle mentalità. Qui è un monito, un memento importante di polso, ecco, più di immagine, più esteriore che concreto, perché poi trovo la lettera agli irlandesi, i risarcimenti nelle diocesi americane molto più capillari, profonda, un'azione molto più capillare e profonda, quella compiuta da Ratzinger nel suo papato. Forse possiamo dire così, Gianluigi, molto più profonda quell'azione come immagine interna alla Chiesa, ma certo più impattante dal punto di vista mediatico l'immagine che dà Papa Francesco, una persona che, lo diciamo, è sempre stata molto attenta anche al messaggio mediatico positivo della Chiesa, cioè il dire, vedete, vi arresto una persona accusata di queste cose. Ma io non sono certamente un vaticanista, vedo però che interpreto l'azione di sempre quella di Bergoglio come prima degli elementi di rottura, o negli orpelli che lui non indossava quando con quel famoso Fratelli e Sorelle Buonasera sullo IOR, cioè elementi di rottura e poi mediatici e poi un'azione invece più profonda nelle strutture curiali, nel decentramento dei poteri, insomma. Credo che stiamo assistendo veramente a una rivoluzione, ecco, questo sì. Gianluigi, che vuol dire è in carcere? Ricordiamo intanto gli arresti domiciliari, ricordiamo che una persona è stata incarcerata in Vaticano per vicende che sono anche alla base del tuo libro, cioè il maggiordomo, l'ex maggiordomo del Papa Paolo Gabriele. Sì, beh, lui aveva, sì, a me insomma aveva dato delle fotocopie di documenti, era un altro periodo, però insomma è finito in carcere. Poi abbiamo visto che le denunce di Paolo Gabriele hanno sortito un effetto decisivo nei cambiamenti. Cioè, cosa rischia Veselovskij? Davvero 6-7 anni, come si legge, e rischia di essere riconsegnato a Santo Domingo? Le autorità, la professoressa Scaraffia dice che andrà a finire così probabilmente. Io ho qualche dubbio, io credo che lui non uscirà più dal Vaticano, insomma. E se dovesse veramente essere consegnato alle autorità domenicane sarebbe un ulteriore passo anche a livello di cooperazione delle varie giustizie senza precedenti. Questo sarà la vera misura, cioè se è un modo, l'hanno richiamato in Vaticano facendo questo gesto importante, però poi tenendo l'imputato, l'indagato, insomma, tenendolo nei palazzi oltre le mura, allora ha un significato. Se invece verrà consegnato all'autorità ha un valore completamente diverso. Ma l'abbiamo già visto quando venne arrestato quel monsignore che perse l'immunità della quale godeva grazie proprio all'intervento di Papa Francesco. Allora, noi tra 5 minuti ripartirò, glielo preannuncio, professoressa Scaraffia, da appunto l'editoriale di Giuliano Ferrara. Oggi fa un commento dal titolo Arresto con condanno ma non giudico sul Foglio, il leitmotiv, diciamo, di questo intervento, di questo editoriale di Giuliano Ferrara è questo: ma chi è lui, cioè il Papa, per giudicare? 24 mattino. Siamo qui alle 8:37 minuti con la professoressa Lucetta Scaraffia e con Gianluigi Nuzzi per parlare del caso di, dell'ex arcivescovo Veslovsky. Ex arcivescovo di cui possiamo sentire, sentire la voce che abbiamo recuperato qualche anno fa. In spagnolo, in questa voce, dice Veslovsky in quest'audio: bisogna rispettare le nostre mogli, le nostre figlie, i nostri figli. Incredibilmente. Allora, professoressa Lucetta Scaraffia, Giuliano Ferrara, ateo devoto, oggi scrive del Papa, ma dov'è la misericordia, la preghiera di perdono, la misericordina addirittura? Dov'è un Papa che prega e piange di disperazione, ricca di speranza per un suo fratello caduto in peccato mortale, la cui salvezza è in pericolo? No, vediamo un monarca medievale la cui volontà sa di battitura di ferri, di cella e non monastica, di consenso del mondo dei media. Uno scandalo per noi laici, i fedeli vedranno cosa pensarne nel cuore vero del loro cuore. Ferrara è abituato anche un po' a stupire, professoressa, però poi è un editoriale molto complicato, sì, in cui l'ho appena letto, ci mette tante cose, tante cose, il chiaro. Tema dell'aborto, che è quello che è il suo tema grande, che secondo lui è arrabbiato col Papa perché secondo lui non parla abbastanza di aborto, quindi questo è il vero motivo. Però lo condanna anche di aver fatto questo gesto molto mediatico, sì, e poco misericordioso. Io penso che certe volte i gesti mediatici servano anche come, diciamo, memento a tutti quegli altri preti che sono magari nascosti, che si comportano male, e non è solo rivolto all'esterno a fare bella figura col mondo, è anche rivolto all'interno, è dire non faremo più sconti a nessuno. E questo della disciplina è un problema che Ferrara non pensa, cioè accanto al problema della misericordia c'è quello della disciplina. La misericordia per chi non si pente veramente, magari per chi vuol solo sfuggire a un'opzione, non è una buona cosa. Beh, se una volta, se io sono sicura che se Veslovsky si pentirà in futuro, il Papa sarà anche pronto ad accoglierlo, ma questo non ha niente a che vedere con la pena. Punizione. E se... anche col fatto che pubblicamente, agli occhi della Chiesa, questa è una cosa che bisogna anche considerare, che non è solo agli occhi del mondo. La Chiesa, tutti gli altri sacerdoti vedono come viene trattato un pedofilo. Quello è un bel insegnamento. Sì, io continuo a insistere che la cosa migliore sarebbe appunto il passo, come dice Gianluigi Nuzzi, sarebbe consegnarlo alle autorità di Santo Domingo. Io penso che lo faranno. Come avviene, per tutti. No, perché si dice all'immunità diplomatica. Ricordate il caso. No, non c'era più. Esatto, ma poi ricordate il caso, non so, Gianluigi, tu non so se te ne sei occupato, ma il caso dell'italiano, credo, console, che è stato preso in Thailandia, è stato accusato e la Farnesina l'ha subito, come dire, abbandonata a se stessa, non ha l'immunità diplomatica, credo era un ex diplomatico italiano, si trova in questo momento in Thailandia. Però Gianluigi, vorrei capire nei tuoi studi e anche dalle tue fonti all'interno del Vaticano, quanto il tema pedofilia è un tema diffuso, è un tema trattato, è un tema affrontato? Ma finora è stato un tema affrontato solo come dire, nel resto del mondo, perché non mi risulta che né in Italia né in Vaticano il tema sia stato affrontato, parlo a livello locale, cioè nel papato di Ratzinger ne abbiamo visto prima, abbiamo parlato dei risarcimenti multimilionari alle vittime della pedofilia negli Stati Uniti, la lettera agli irlandesi, cioè ci sono stati diversi momenti importanti. E in Vaticano però è un tabù, è restato un tabù, è stato un'arma, uno strumento di pressione, di ricatto nella curia degli ultimi del papato, sia del papato di Wojtyla sia del papato di Ratzinger, questo come l'omosessualità, cioè da una parte queste devianze, perversioni o l'omosessualità a gusto, scelta sessuale, non sta certo messa in indagarla, diventano però in certi ambienti diventano degli strumenti di ricatto, la famosa lobby gay. Ecco, lì era un circolo magico che credo che Ratzinger abbia attaccato come sottogliendo loro potere. L'ha fatto con diversi esponenti, sia nelle alte sfere, sia nelle medie, combattendo, esautorandoli di fatto, anche non finendo nemmeno sui giornali, alcuni, togliendo loro incarichi, cercando di mandarli fuori addirittura dal Vaticano. Ecco, lui ha attaccato sul potere, più che altro. Credo che su questo stia combattendo una battaglia che è molto difficile, perché bisogna evitare lo scandalo, no? Lo scandalo mediatico da una parte, dall'altra parte bisogna agire, è chiaro. Io sentirei Paolo, che ci chiama dalla provincia di Alessandria. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno Milan. Ascolti, più o meno avete già toccato voi l'argomento. Il discorso è: se volevano fare tanto bella figura, lo lasciavano alla giustizia ordinaria. E soprattutto sembrano i politici, cioè fuori i corrotti dalla politica dopo che li ha presi il giudice. Perché non l'hanno denunciato loro prima? Io non ci credo che non lo sapessero. Dove lavoro io, faccio l'autista. Se un autista ruba la merce sui camion, lo sappiamo tutti. Insomma, lei accusa un po' di omertà. C'è voluta, lo ricorda anche questo intervento dell'International Herald Tribune, oggi pubblicato da Repubblica. Se volete leggetelo, perché sull'International Herald Tribune è nata questa inchiesta. È stata una giornalista di Santo Domingo, una giornalista molto aggressiva, una giornalista che fa inchieste, che ha scoperchiato appunto questa vicenda che tutti conoscevano a Santo Domingo, perlomeno da un po' di tempo. L'opinione pubblica la conosceva. Grazie Paolo. Andrea Roma, da Giuseppe, buongiorno. Giuseppe. Buongiorno, è pronto? Sì, dica. Ok, cioè, io volevo soltanto parlare del polverone che hanno alzato i vescovi riguardo ai divorziati che non possono più prendere i sacramenti, eccetera, eccetera, sì. Quando poi invece i pedofili dentro la Chiesa in qualche maniera non sono condannati alla stessa maniera e i vescovi non hanno preso nessun tipo di posizione rispetto a questo. Cioè lei dice, sono due cose completamente diverse, sì, però lei dice nota un'avversione sulla questione, a parte che c'è un'apertura del Papa, però c'è una discussione nella Chiesa sulla comunione ai divorziati, quando non vede la stessa integrità di lotta nei confronti di un reato così grave. Giuseppe, la ringrazio, vorrei con la professoressa Scaraffia un commento, magari questi due ascolti, chiudere questa pagina. Professoressa, ha sentito? Guarda, io penso che ha ragione il primo ascoltatore quando ha detto, ma probabilmente lo sapevano. E la Chiesa, questo ha ragione che la Chiesa non è intervenuta prima, ha ragione che c'è una sorta di omertà, di connivenza anche per evitare lo scandalo, diciamo così, all'interno della Chiesa, una tradizionale, diciamo così, abitudine a evitare gli scandali appena più che si può, ecco, e questo sicuramente è vero. Penso che qualcosa stia cambiando, perché invece Papa Francesco sta lanciando segnali molto diversi, però è la prima volta che vengono lanciati, anche Ratzinger ha lanciato segnali molto diversi, li ha lanciati dal punto di vista culturale importantissimi, perché appunto la lettera, come ha ricordato Nuzzi, la lettera agli irlandesi era una lettera durissima, però non li ha lanciati nella prassi. Questo conta molto, perché poi la gente dice, ma parole buone le hanno sempre dette, sì. Ma invece adesso si comincia a vedere anche i fatti. Questo di sbatterlo in galera è stata una prassi. Poi io spero molto che lo rimandino alla giustizia civile Santo Domingo, penso che lo faranno, perché io ho notato che padre Lombardi ha insistito più volte dicendo non ha più alcuna immunità diplomatica. Sì, come dire, potrebbe finire e poi essere giudicato dalla giustizia penale di Santo Domingo. Io mi devo fermare e vi ringrazio, professoressa Lucetta Scaraffia, ricordo editorialista dell'Osservatore Romano, insegna anche alla Sapienza, e Gianluigi Nuzzi, di cui ricordo Quarto Grado il venerdì, prima serata su Rete 4. Grazie per essere stati con noi. Dopo il traffico avremo ospite, è già con noi, lo voglio salutare, un GIP, un giudice per indagini preliminari di Udine, si chiama Francesco Florit. Buongiorno dottor Florit, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei e agli ascoltatori, e grazie a lei. Un attimo di pazienza al traffico, perché lei, come abbiamo detto ieri in rassegna stampa e come ha scritto i giornali, ha fatto un'ordinanza che nell'arresto di credo 5 moldavi ha scritto delle cose che suonano più o meno così: molti stranieri vengono qui in Italia perché rubano, tanto sanno che sono quasi impuniti. eccoci qui. Come detto, Francesco Florit è giudice per le indagini preliminari a Udine. Dottor Florit, la vicenda è quella, credo, dell'arresto di 5 moldavi accusati di 4 furti con spaccate avvenuti tra Udine, Monfalcone e Mogliano Veneto. Allora, io non ho il provvedimento perché il provvedimento non è pubblico, però il Messaggero di Udine ha scritto che lei, con parole ovviamente diverse, ma per far capire agli ascoltatori, si è chiesto nell'ordinanza perché queste persone, come altre, fanno tanti chilometri e vengono qui in Italia, perché sanno che fai un patteggiamento se anche ti prendono e ti rimettono in libertà subito dopo. Insomma, sanno che la giustizia non è efficiente e il sistema è tale che dopo poco si è rimessi in libertà e si può ricominciare come prima. Esattamente, se posso dire una cosa, le parole sono esattamente queste che lei ha utilizzato. E non riflettono il mio pensiero, convincimento personale, ma il convincimento molti di questi rappresentanti della criminalità in generale balcanica, che vengono qui con questo atteggiamento rapinoso di razzia. Ma loro pensano così, basandosi su qualcosa? Io non mi baso su un sociologismo astratto, ma su dati concreti. Ho lavorato 5 anni in Kosovo e ho ricevuto questo feedback da numerosissimi, da testimoni o da giudici kosovari, che ne davano atto in maniera pacifica, da parte di testimoni che in procedimenti penali internazionali, in maniera apertissima e chiarissima, dicevano: sì, io sono stato 2 mesi per rapina in carcere in Italia, ma tanto poi si sa che si fa il patteggiamento e si esce. Certo, quindi... perché lei, vogliamo ricordare, ha avuto appunto questa esperienza in Kosovo, quindi lei dice non è il suo convincimento, ma basato su tantissime testimonianze, molte persone che vengono soprattutto dall'area balcanica pensano così, cioè dell'Italia, che c'è un'impunità diffusa. Questo è purtroppo un dato di fatto confermato da intercettazioni, confermato da una serie di dati che sono fatti e non chiacchiere. Però scusi, dottor Florit, il loro convincimento è un convincimento che lei da giudice può confermare o smentire? Cioè lei ha lavorato anche in Kosovo, guardi, è effettivamente così? Cioè che in Italia c'è un'impunità diffusa? Il sistema non è efficiente, il sistema non produce in grado sufficiente il servizio che dovrebbe rendere, e io penso che questa sia un'opinione condivisa dalla popolazione e non sia semplicemente emozionale. Se andiamo a cercare le responsabilità, esse stanno principalmente in una mentalità diffusa e eccessivamente condiscendente, probabilmente. Per fare un patteggiamento bisogna essere in 3, ricordo. Sì. C'è un avvocato, c'è un pubblico ministero e c'è un giudice. E quindi c'è un po' troppo buonismo, lei mi sembra di poter dire, da parte di tutte le parti in causa, ovviamente, in un procedimento. Io ne sono convinto. È convinto. E poi ovviamente c'è un sistema che non aiuta, perché ci sono 1000 forme, 1000 scappatoie e 1000 maniere per ottenere questi risultati. Lei sa che anche il cittadino medio, tutti i cittadini pensano, moltissimi pensano appunto questa cosa, cioè che ci sia una impunità abbastanza diffusa, soprattutto non magari per i gesti di grande criminalità, ma per quei gesti di microcriminalità. Quante volte si sente dire: presa una persona, era la 15ª, 20ª volta. Ma tutto questo davvero come si può agire? Lei che opera nel settore, cioè cosa bisognerebbe fare per evitare che ciò accada? Ci vuole minore astrattezza e maggiore concretezza. La procedura penale è un sistema ormai obsoleto che dovrebbe essere estremamente semplificato, lo stesso per il codice penale. Meno pena, però effettiva. Mi faccia capire, queste persone, per esempio, che lei tra l'altro ha confermato come custodia cautelare in carcere, ecco, ce le ritroveremo così, secondo una previsione in base al codice? Ah, questi signori sono venuti in Italia con la specifica finalità di compiere una serie di furti con spaccata e poi ritornarsene in Moldavia o in Romania, uno era romeno. Qua in Friuli e anche in Veneto di casi di questo genere se ne contano diversi, troppi, di questo turismo criminale. Questo non è accettabile, è significativo, bisogna prendere provvedimenti, è necessario che ci sia una stretta su questo. Però che tipo di provvedimenti? Se aumentano le pene, se aumentano per tutti, per dire. Intanto una maggiore coscienza da parte di tutti gli operatori, che la società la si salva tutti quanti oppure si va tutto a catafascio. Secondariamente, ad esempio, riforme come l'articolo 275 del codice di procedura penale recentemente adottate certamente rendono più difficile l'adozione di misure restrittive. Che io non lo conosco, mi perdoni questo articolo. C'è stata una recente riforma che ha reso più complessa e più difficile l'adozione di misure restrittive in generale. Però mi faccia capire, per concludere, queste persone sono in carcere, ma ripeto, presumibilmente quanto ci resteranno, se verranno poi condannate, oppure ce le ritroviamo tra 3 mesi ancora in Italia? Questo non so dire, perché io mi occupo soltanto della fase cautelare e la fase di indagine si chiuderà in breve, perché non c'è molto da... E poi dovrebbero andare ad un giudizio in cui magari ci sarà una richiesta di patteggiamento, e se questa non determina una pena superiore ai 3 anni ci sarà anche la possibilità di che questi siano rimessi in libertà. Perché sono incensurati, quindi... L'incensuratezza in questi casi conta poco, perché sono cittadini stranieri e quindi è chiaro che sono formalmente incensurati. È la prima volta che commettevano un reato in Italia. Vorrei vedere. Almeno la prima volta che sono stati trovati in Italia. Sì, certo, la prima volta. Quindi se una condanna sotto i 3 anni potrebbero essere rilasciati. Certamente. Ecco, questo è un po' il senso che lei ha voluto anche denunciare in questa ordinanza, cioè il fatto. Ma mi pare di aver scoperto l'acqua calda. No, ma è chiaro. Però sa, il fatto che lo scriva un giudice, questa cosa. Ecco, ci tengo a dire una cosa. Sì. La mia non è stata una resa o un alzare le mani di fronte, no? Ma è forse stata personalmente almeno una sveglia, no? Dottor Florit, la percepiamo proprio così, come un giusto monito che lei, da giudice per indagini preliminari, anche con esperienza in Kosovo, ha voluto fare. La ringrazio molto per essere stato con noi, Francesco Florit, GIP a Udine. Ci fermiamo qui con Miriam Lucchetti, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione e Peter Bescapè in regia. Se avete il biglietto per stasera per il live di Platone, vi aspettiamo alle 21 qui a Radio 24.